La situazione in Afghanistan, come si muovono i talebani e come lo Stato islamico nel paese? E qual è l'influenza dell'Iran? E poi ancora Venezuela, una domenica ad altissima tensione dopo l'attacco a una base militare nella città di Valencia. E infine le misure di sicurezza a Londra per i mondiali di atletica. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar. Ben ritrovati e buon lunedì, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano, prima puntata di questa seconda settimana di programmazione. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Taglia, Elisa Pancaldi che sono in redazione e Gianmarco Ferronato che per quest'oggi e per questa settimana darà musica e ritmo ai temi che toccheremo. Vi ricordo anche le coordinate per interagire con noi, ovvero sia porre domande o commentare o criticare. La pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, poi gli SMS al 349-238-6666, il numero vale anche per il WhatsApp. Infine potete cinguettare, se utilizzate Twitter, ai due account Nessun Luogo 24, ovvero il mio personale che è Giampaz. Allora, come da copertina, prima tappa di questo nostro viaggio è il Venezuela. Buenos días y bendiciones para toda Venezuela. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la Operación David Carabobo desde la 41 Brigada Blindada Cantonada en Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador del... Allora, la voce che state sentendo è quella dell'ex capitano della Guardia Nazionale Venezuelana, che è Juan Caguaripano, dove spiega in un video apparso su YouTube proprio ieri, durante le ore dell'attacco a una base militare nella città di Valencia, la terza città per grandezza e importanza del Venezuela, in cui l'ex militare ricercato da almeno un paio di anni spiega che non si tratta di un golpe ma di una ribellione civico-militare per porre fine al regime di Maduro. Al di là dei messaggi di propaganda, quello che è successo è stato un attacco guidato da un manipolo di militari, ma poi anche una sollevazione civile e di parte della popolazione, che però poi è stata repressa dalla polizia. Questo capitolo che vi stiamo raccontando è solo l'ultimo della recente storia venezuelana, che nelle ultime settimane ci ha consegnato un inasprirsi della crisi economica ma anche alimentare e anche umanitaria, e poi un inasprirsi della crisi politica, perché sono più di 100 ormai i morti durante le proteste e la feroce repressione da parte del presidente Nicolás Maduro, benché da più parti chavisti super convinti continuano a dire fa bene Nicolás Maduro. C'è chi porre l'accento su quello che avviene sui fatti di cronaca e molto spesso viene bollato come golpista, segno che raccontare il Venezuela come altre regioni calde molto spesso fa schierare pubblico, lettori, ascoltatori in maniera molto spesso ideologica. Cerchiamo di stare sui fatti, cerchiamo di raccontare quello che sta avvenendo. Vi propongo una breve cronologia. Nel dicembre 2015, l'opposizione del MUD, Mesa della Unidad Democrática, vince le elezioni venezuelane, raggiungendo la maggioranza in Parlamento con oltre 7 milioni di voti contro i 5 milioni e 600 mila del presidente Nicolás Maduro. Ma il risultato del voto viene subito contestato. Maduro sostituisce alcuni dei magistrati della Corte Suprema di Giustizia con alcuni fedelissimi del suo Partito Socialista Unito del Venezuela. E inizia un braccio di ferro con il Parlamento controllato dall'opposizione. All'inizio del 2017 il Parlamento rifiuta di approvare una norma che permetterebbe alla società petrolifera di Stato PDVSA di formare joint venture con società private, una decisione che il governo rifiuta appellandosi alla Corte Suprema, la quale prova ad esautorare il Parlamento e a prenderne i poteri. Le vigorose proteste e le prime vittime sul campo fanno ritornare la Corte Suprema sui propri passi. Ma il 3 maggio Maduro ordina la formazione di una nuova assemblea costituente per cambiare la Costituzione. Una mossa che scatena nuove proteste e nuovi scontri in piazza. 8 nazioni latinoamericane, inclusi il Messico, Brasile e Argentina, denunciano l'uso eccessivo della forza, mentre il bilancio ufficiale delle vittime sale. L'8 maggio l'opposizione interrompe il dialogo con Maduro e decide di proseguire le proteste, rese ancora più dure dalla scarsità di generi alimentari nei mercati di tutto il paese. A fine maggio, mentre gli USA iniziano ad applicare sanzioni economiche, il presidente presenta il suo piano per un'assemblea costituente composta da 540 membri e sostiene che le proteste siano sostenute dagli americani per rovesciare il socialismo del XXI secolo. Intanto vengono ristrette le libertà sul web e a molti leader e a molti personaggi istituzionali che si oppongono a Maduro vengono applicate sanzioni. Tra loro c'è Luisa Ortega Diaz, la procuratrice generale, che sostiene l'illegittimità della nuova assemblea costituente. Le elezioni per eleggere questa assemblea, che dovrebbe riformare la Costituzione, si sono tenute il 30 luglio scorso, ma sono state seppellite di proteste per le irregolarità nelle votazioni. Sabato 5 agosto, la nuova assemblea costituente si è insediata. Le vittime rimaste uccise negli scontri da aprile ad oggi sono oltre 100. Questa è la recentissima cronologia, ciò che è accaduto in Venezuela negli ultimi 2 anni per capire a che punto siamo arrivati e capire adesso la situazione del paese. Ci aiuta Marinellis Tremanummo, che è corrispondente in Italia per Diario Los Andes, scusate, e TV Imagen, l'una venezuelana, l'altra messicana. Marinellis, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno Giampaolo, grazie mille. Allora, intanto devo darvi conto delle ultimissime, perché avete sentito dalla cronologia che Luisa Ortega Diaz, la procuratrice generale, si era opposta fortemente alla nuova assemblea costituente. Ieri è stata esautorata, anzi l'altro ieri è stata esautorata del suo compito, e ieri in un'assemblea, un convegno all'Università Cattolica Andrés Bello, ha parlato con alcuni giornalisti e ha detto testualmente: se mi succederà qualcosa la colpa sarà del governo. E le reazioni politiche, quantomeno a livello europeo, a questa esautorazione non si sono fatte attendere. Mogherini, il ministro degli esteri fondamentalmente europeo, ha espresso preoccupazione, dice: la rimozione dell'Ortega va ad aggravare la crisi. Allora Marinellis, sono tanti i temi in campo, però vorrei partire da quella rivolta di quel manipolo guidati dall'ex capitano della Guardia Nazionale, che ci mostra forse come l'esercito, che è una presenza, un attore molto importante nella storia venezuelana, non è monolitico, non è granitico, e vi sono delle possibili defezioni al suo interno. Potrebbe essere la chiave di volta della risoluzione della crisi, o dell'inasprimento, in realtà non lo sappiamo. Sì, diciamo che quello che abbiamo visto ieri, da una parte è una conferma che nel paese c'è una frattura anche dentro delle forze armate, e sarebbe anche un'ulteriore conferma della crisi di ingovernabilità che esiste nel paese. Poi evidentemente anche si è stato dimostrato ieri che c'è anche debolezza per la difesa del proprio governo, perché questo gruppo militare è riuscito a prelevare centinaia di fucili. Non si sa ancora la quantità esatta di quanti fucili e munizioni sono state prelevate, e il governo insiste che comunque sono riusciti a controllare questo movimento, ma diciamo, la situazione sembra che è completamente diversa. Allora, forse è bene ricordare che il ruolo dell'esercito è uno e il ruolo della polizia è un altro. Ci aiuti Marinellis a capire anche lo schieramento, no, di queste due forze di sicurezza all'interno del paese. La polizia è una cosa e l'esercito è un'altra. È bene ricordarla anche dal punto di vista, come dire, degli assetti e degli equilibri politici, no? Sì, diciamo che fino adesso Maduro ha utilizzato molto la Polizia Nazionale Bolivariana e la Guardia Nazionale per la repressione forte che abbiamo visto questi ultimi 4 mesi. Diciamo il braccio armato più forte che abbiamo visto in piazza contro i manifestanti. E l'esercito, ieri abbiamo visto che è stato colpito e che comunque la reazione non è stata abbastanza forte, perché comunque questo gruppo di ribelli sono riusciti a scappare con queste armi. Poi portare centinaia di armi non è una cosa che si fa tra due o tre persone, quindi evidentemente certo. È stato un movimento grande e peraltro abbiamo visto anche stanotte movimento di carri armati a Caracas da parte delle forze armate che sono ancora dalla parte di Maduro. Sì. Questo dimostra anche un po' di paura e forse attendono qualche altra mobilizzazione contro il governo. Sì. Allora, la voce che sentite è di quella di Marinellis Tremanumo, giornalista venezuelana, corrispondente per due network differenti dall'Italia, però conosce bene, segue da vicino ovviamente ciò che accade a Caracas e non solo. Intanto Marinellis al 349-238-6666, un ascoltatore, Massimo da Cagliari, dice: il Mercosur ha espulso il Venezuela, Maduro ora avvierà un ulteriore giro di vite nelle forze armate dopo aver esautorato Parlamento e maggioranza. Adesso solo un intervento esterno, dice Massimo, può rovesciare Maduro. Stiamo raccontando un paese che è sull'orlo della guerra civile, se non lo è già. Vi sono diverse fazioni anche delle forze armate che evidentemente in questo momento stanno vacillando, no? Rispetto a questa linea dura di Maduro. Pensi che questa espulsione dal Mercosur, che è il mercato comune dell'America Latina, e quindi, come dire, la debolezza economica del Venezuela, alla fine sia la vera leva per un possibile cambiamento anche politico? Perché alla fine i venezuelani, è notizia di pochissime ore fa, ripresa adesso non mi ricordo da quale giornale, ce l'ho qua sotto, sono migliaia i venezuelani che nelle ultime settimane stanno uscendo dal Venezuela e stanno andando in Colombia, ma semplicemente perché non c'è più nulla da mangiare. Questo profondo disagio economico ma anche alimentare, pensi che alla fine sarà quello, come dire, a far intervenire qualcuno dall'esterno, come dice l'ascoltatore? Sì, questa espulsione di Venezuela dal Mercosur è una dimostrazione puntuale della pressione che si vuole imporre dall'esterno per riuscire a fare un cambiamento da parte del governo. Ma nel frattempo gli Stati Uniti continuano a comprare il petrolio del Venezuela e il Venezuela continua a comprare il petrolio e la benzina agli Stati Uniti. Quindi anche servono azioni ancora più forti da parte degli Stati Uniti, perché fino adesso il governo di Trump ha fatto delle sanzioni direttamente al presidente, ai funzionari, ma servono altri tipi di sanzioni ancora più forti, e sempre al governo. Ovviamente qua non si vuole sanzioni contro il popolo, no? Stiamo parlando di due cose diverse. Sì, sì. Poi domani, voglio dare questa notizia, c'è un vertice d'emergenza di 14 ministri degli esteri delle Americhe per valutare la situazione del Venezuela, quindi questo dimostra anche una preoccupazione a livello regionale per vedere che altre azioni si possono iniziare per costringere ancora di più al governo di Maduro a riprendere il cammino democratico, il percorso democratico. Sì. Perché quello che è stato dimostrato così con la espulsione della procuratrice, con il modo come è stata installata la costituente, è evidente già alla comunità internazionale che quello che c'è in Venezuela è una dittatura, purtroppo. Sì. Allora, hai citato almeno un paio di parole che sono importanti, credo, Marinellis. Da un lato Stati Uniti, che è sicuramente un attore che può dire la sua, dirà la sua, figurarsi, su una crisi come questa. E l'altro è petrolio, perché, come ricorda un ascoltatore, che dice: a me pare semplice, in Venezuela c'è una dittatura socialista dei tempi di Chavez e nonostante siedano su un mare di petrolio hanno cancellato il significato del diritto di proprietà, espropriato, fatto fuggire investitori privati, col risultato che manca persino la carta igienica. Questo Marcello, con un po' di sconforto evidentemente. Marinellis, però ci sono anche altri attori, perché ci sono interessi russi, insomma il Venezuela, questa ricchezza di petrolio fa gola. E però, come dire, la riunione di domani di cui tu ci davi notizia è una riunione fondamentalmente regionale. Sì, è una riunione regionale, ma dimostra anche la preoccupazione che c'è, e speriamo che serva anche a spingere a fare qualcosa in più perfino la comunità europea, perché penso che questo deve diventare un problema internazionale, perché il Venezuela, dobbiamo ricordare, ha dei rapporti molto forti con la Cina. La Cina è ancora il paese che sta finanziando, dando soldi al governo venezuelano. Cioè, noi siamo indebitati a cifre inquantificabili con la Cina, Maduro ha anche sostegno da parte di Russia, Quindi è un problema della comunità internazionale, non solo è un problema dei venezuelani, perché i nostri funzionari sono segnalati per avere collegamenti con il narcotraffico latinoamericano, per avere contatti con il terrorismo islamico, con Hezbollah. Sì. Quindi è una situazione molto preoccupante, e per quello in tante occasioni i propri venezuelani sentono molto sconforto e pensano che forse con un intervento militare si riesce a risolvere il problema, perché purtroppo un popolo disarmato è molto difficile che riesce a fare una svolta del governo di fronte a un governo che uccide in piazza, come lo abbiamo visto questi ultimi 4 mesi. Siamo già su oltre 130 morti, migliaia di feriti, oltre a 5.000 arresti, di cui più di 1.000 persone sono ancora in galera, e stiamo parlando di situazioni anche di tortura dentro di questi arresti. Vedremo se intanto la presa di posizione europea con Federica Mogherini contribuirà quantomeno a riaccendere i riflettori e quantomeno al rispetto, appunto, dei diritti fondamentali, che pare vengano violati ormai sistematicamente. Marinellis Tremanunno, grazie mille per essere stata con noi. Vi ricordo la sua pagina Facebook, Marinellis periodista Tremanunno, se volete seguirla, corrispondente in Italia, Diario sul Los Andes e TV Igmaken. Grazie mille Marinellis, buona giornata, buon lavoro. Grazie mille a voi. Allora, ci sono parecchi sms e whatsapp sulla questione venezuelana, e non avevo dubbi. C'è un ascoltatore che per lavoro, perché fa esplorazione scientifica, si era recato già un paio d'anni fa, così recita il whatsapp, in Venezuela e poi al confine col Brasile, e già denunciava almeno 2 anni fa la carenza di generi alimentari. Poi c'è Carmen che invece, sempre al 349-238-6666, dice: beh, insomma, la UE se ne sbatte dei migranti, perché dovrebbe occuparsi del Venezuela. Beh, insomma, molto spesso, come dire, la politica denuncia una scarsità di risorse che sono limitate anche a livello di attenzione politica, di dossier. Vediamo se il caso venezuelano, io ricordo puntate speciali di Nessun Luogo ancora l'anno scorso, se non 2 anni fa, insomma è una crisi che va avanti da parecchio. Poi c'è chi invoca il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, insomma da qui a fine agosto continueremo a raccontarvi questa crisi. Adesso però cambiamo decisamente pagina, andiamo in Afghanistan. برا الحزن البوط والزوارة برا الحزن الحزن ما بقى امان. Devo dire che è un po' difficile voltare pagina, perché è arrivata un'altra pioggia di sms sempre su tema venezuelano. C'è chi punta il dito contro l'America che dà sanzioni a tutto il mondo, un altro che dice: gli estremi disagi del Venezuela sono responsabilità dell'America e della CIA, come la storia insegna, in Sud e Centro America, vedi Cile, Brasile, Argentina e Nicaragua. Beh, se dobbiamo trovare un filo rosso che comunque comprenda l'acronimo USA, allora l'Afghanistan sicuramente è un dossier che per gli Stati Uniti è stato importante, è stato scottante. 500 miliardi di dollari bruciati in un intervento ormai decennale. Vi porto in Afghanistan, in particolare nelle regioni del nord, la provincia di Sarailpul, distretto di Sayyad, perché il New York Times ha riportato recentissimamente di un attacco che avrebbe lasciato sul terreno almeno 50 morti. A condurre l'offensiva sarebbero stati i talebani, ma in collaborazione degli elementi dello Stato Islamico in Afghanistan. Il governatore di Sayyad, Amin Yar, ha precisato che i due gruppi sarebbero stati guidati rispettivamente dal Mullah Nader e da Sher Muhammad Ghazanfar. Tra i morti, tra i 50 morti, 18 membri della polizia afghana, il resto sarebbero civili. Però

vedono male la presenza di, hanno visto male nello scorso decennio la presenza di truppe internazionali, vengono più facilmente reclutate. Sì. Quindi nel nord rispetto al sud e all'est la presenza di Taliban è riuscita a imporsi anche nelle altre comunità etniche. Sì. Al tempo stesso manca una totale identificazione col movimento Taliban, come c'è nelle zone sud-est del paese, in quanto movimento percepito ancora parzialmente come principalmente Pashtun. Sì. Questo ha avuto un effetto, cioè che la propaganda di un movimento ugualmente militante, anzi ancora più massimalista, che gioca sulla la mancanza di identificazione con il governo, il risentimento verso le truppe internazionali e l'indottrinamento religioso dei giovani, come Daesh, come l'ISIS, sia riuscita a reclutare in maniera abbastanza diffusa tra giovani che erano, come dire, potenzialmente recluti per i Taliban. Sì. Questa è una situazione più ambigua, in cui dei comandanti che in passato avevano i Taliban come unico referente, in questo momento possono essere interessati a affiliarsi al Daesh. Era la voce di Fabrizio Foschini, analista per Afghanistan Analyst Network. Adesso l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, una prima lunga pagina dedicata alla crisi venezuelana e poi una seconda pagina dedicata all'Afghanistan, traendo spunto da questo articolo del New York Times che traccerebbe o tratteggerebbe una possibile joint venture, una possibile collaborazione, alleanza strategica tra lo Stato Islamico in Afghanistan e i talebani. Prima però lasciatemi rispondere a un commento sulla pagina Facebook del programma dove un'ascoltatrice dice: non capisco perché per i media italiani bruciare la gente viva per strada da parte dell'opposizione sia normale in Venezuela e in Italia invece no. Morale a fasi alterne. Allora, abbiamo fatto una ricerca rapidissima. C'è una foto che è stata ripresa da Telesur e da un'altra agenzia di stampa vicina al governo di Maduro che mostrerebbe effettivamente una chavista che viene bruciata. Questa notizia, questa foto non è stata ripresa da nessun media internazionale né da altri media, per cui ho il ragionevole sospetto, ma adesso ci mettiamo e indaghiamo sul serio, che sia ragionevolmente una fake news, cioè qualcosa di costruito appunto per colpire. Se invece l'ascoltatrice si riferisce a immagini che abbiamo visto più volte di guerriglia urbana con Molotov lanciate contro le forze dell'ordine, questo non c'è dubbio che stia avvenendo, come non c'è dubbio che sono rimasti sul terreno almeno 130 civili morti dall'inizio delle proteste. Torniamo sulla pagina afghana, benché certo che arriveranno altri messaggi sul tema venezuelano, li leggerò. Eravamo con Fabrizio Foschini, che è analista per Afghanistan Analyst Network, in cui fondamentalmente, insomma, la tesi di Fabrizio è che questa ambiguità a livello locale, anche di capi, di dirigenti, di piccoli leader, sia Taliban che dello Stato Islamico in Iraq, possa portare a convergenze, come dire, occasionali e a reclutamenti facili da parte dei due attori. Sentite. Esatto, è ancora presto, secondo me, almeno per me è ancora presto per valutare se effettivamente ci sia stata un'alleanza, almeno a livello locale, una deliberata alleanza e appunto un attacco in comune, in collaborazione tra comandanti Taliban e comandanti esplicitamente affiliati sia al Daesh. È possibile che dei comandanti, voglio dire, tengano i piedi in due staffe, fossero affiliati in passato, qualche anno fa, nominalmente ai talebani, avessero ricevuto aiuti dai Taliban, ma siano anche molto vicini, molto pro

parte dei loro finanziamenti extra istituzionali, diciamo, verso un cavallo di battaglia che sembrava più forte, appunto, lo Stato Islamico, e si sono fatti lì invece altri, negli ultimi anni, altri finanziatori come ad esempio l'Iran. Quindi per la bassa manovalanza, per i militanti che non hanno orientamento ideologico ma che aspirano soltanto a portare a casa uno stipendio mensile, non conta tanto per chi si combatte quanto chi paga. Certo. Giuliano Battison, fra l'altro hai risposto a una domanda di un ascoltatore che chiedeva chi finanziasse appunto i talebani. Dobbiamo anche ricordare il ruolo del Pakistan, ovviamente storico da questo punto di vista, vicino e scomodo paese appunto dell'Afghanistan. Stai con noi, Giuliano, ti faccio sentire un'ultima fotografia di Claudio Bertolotti sulle forze di sicurezza afghane, perché se è vero che, diciamo, la parola vuoto è quella che può spiegare, o deficit se preferisci, può spiegare tante cose, ebbene i deficit strutturali delle forze di sicurezza afghane sicuramente giocano un ruolo importante. Claudio Bertolotti. Poco, purtroppo, e mi duole dirlo perché in effetti mi ha toccato molto da vicino. Oggi sulla carta abbiamo 340.000 unità fra forze di polizia e forze dell'esercito, ma un terzo di queste rientrano già nella categoria delle perdite, tra caduti, feriti, disertori o congedati che non hanno rinnovato la ferma. Questa componente è stata velocemente sostituita da nuove reclute, però prive di alcuna esperienza sul campo di battaglia, ma subito inviate al fronte. E questo ha portato a una riduzione di una capacità operativa delle forze di sicurezza afghane, che è andata ad incidere in maniera ancora più forte su una capacità operativa che era già molto bassa. A oggi le forze di sicurezza afghane hanno una capacità di operare in maniera autonoma all'incirca del 50%, il che vuol dire che non possono operare utilizzando forza aerea, che già non esiste o è estremamente limitata per le forze armate afghane, in coordinamento con le forze terrestri. E questo porta i talebani o gli altri gruppi di opposizione armata ad avere un significativo vantaggio sul campo di battaglia, perché i talebani possono muoversi e combattere in maniera veloce, ma l'esercito afghano non è in grado di poter schierare le truppe laddove i talebani vanno a colpire, e spesso vanno a colpire con successo. Ed ecco che ancora una volta, con un po' di amaro forse, la parola vuoto diventa importante per descrivere quello che sta accadendo anche a livello del terreno, no, in Afghanistan. Terreno, dove dire aria, perché la mancanza di una solida aviazione degna di questo nome sicuramente è un problema per il governo di Kabul, per andare appunto a contenere le spinte di talebani e Stato Islamico in Afghanistan. Ho un'ultima domanda per Giuliano Battiston, perché Giuliano hai citato Iran, che nella narrativa ormai non solo statunitense è il grande nemico, il male assoluto, no? Non solo in Medio Oriente ma anche in Asia. Prima però ascoltiamo le ultimissime sulle strade italiane, poi l'ultima domanda per... Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Volevo rassicurare intanto un ascoltatore che su Twitter dice: ma come, 5 minuti di analisi sull'Afghanistan e non menzionate il traffico di droga, l'eroina? Ci arriviamo subito, perché probabilmente è legato anche al ruolo dell'Iran. Giuliano Battiston, giornalista, freelance, ricercatore, esperto del paese. Il New York Times sta dedicando una serie di articoli alla crescente importanza dell'Iran nei vari teatri, non solo quello medio orientale, e insomma sta iniziando a infilare i piedini e le manine anche in Afghanistan. In che modo lo fa? E seconda domanda, uno dei mercati di sbocco del traffico di eroina che arriva, l'oppio, eroina che arriva dall'Afghanistan, è anche l'Iran. Non è certamente su una delle cause, diciamo, o delle giustificazioni, però aiutaci a capire meglio qual è il rapporto tra Iran e Afghanistan. Il rapporto vanta secoli di storia, non è cominciato con l'occupazione militare americana, ha solo cambiato profilo con l'intervento militare. L'Iran in qualche modo reagisce a una presenza che ritiene ostile. L'Iran condivide un confine di migliaia di chilometri con l'Afghanistan, e al di là di quel confine c'è la potenza americana, con un presidente come Donald Trump che non ha nascosto una fortissima ostilità contro il governo Rouhani. E questo favorisce i settori dell'amministrazione iraniana più conservatori, in particolare il cosiddetto Stato profondo, le guardie della rivoluzione, che gestiscono il dossier Afghanistan e lo fanno in che modo? Sovvenzionando parte dei gruppi antigovernativi, anche i talebani, in modo da avere uno strumento di forza nella partita afghana contro gli americani, anche per orientare l'indirizzo politico del governo di Kabul. Qualcuno sospetta anche che le guardie della rivoluzione abbiano una mano nei traffici illeciti. Le stime e le statistiche ufficiali dicono che la polizia di frontiera iraniana fa un lavoro molto duro e molto difficile nel contrastare il traffico di droga, ma non è escluso che alcuni settori dell'establishment della sicurezza possano avere appunto un interesse nel favorire questo traffico. Teheran e Kabul in ogni caso si guardano in modo sospettoso, anche se ci sono questioni fondamentali, forse più importanti della droga, come la condivisione delle acque che nascono nei monti dell'Indo Kush e che scendono fino in Iran. Sì. Su questo da decenni si gioca una partita diplomatica molto dura che nei prossimi anni, quando appunto l'acqua diventerà ancora di più una risorsa fondamentale, potrebbe assumere una forma anche militare. Grazie mille Giuliano Battiston per essere stato con noi, grazie della tua analisi come sempre puntuale. Ricordo, giornalista, freelance, ricercatore, autore di Arcipelago Jihad, lo Stato Islamico e il ritorno di Al-Qaeda, una lettura che vi consiglio se volete saperne di più su questi temi. Grazie mille Giuliano, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Adesso cambiamo decisamente argomento e andiamo a Londra, perché sono in pieno svolgimento i mondiali di atletica leggera e ovviamente un evento internazionale importante come questo fa salire l'allerta dei servizi segreti e delle forze di sicurezza, perché lo capite bene, per elementi legati al terrorismo è un'occasione ghiotta, per cui si gioca questa partita ovviamente di cui noi non sappiamo quasi nulla, di mosse e contromosse appunto per evitare il peggio. Ma sapete qual è il più grande nemico dei servizi segreti britannici? Beh, il più grande nemico sono i numeri. Secondo i dati più aggiornati diffusi dai servizi di sicurezza britannici, sono circa 850 le persone che dal 2012 a oggi hanno lasciato il Regno Unito per arruolarsi ai gruppi jihadisti in Siria e in Iraq. Alcuni sono morti, alcuni sono stati arrestati, altri sono ancora nella zona o sono rientrati in Gran Bretagna. Ma l'MI5, i servizi segreti interni, e le sezioni antiterrorismo interne a ogni dipartimento ritengono anche che in territorio britannico oggi siano presenti circa 3.000 simpatizzanti jihadisti. Il 22 maggio scorso, a Manchester, subito dopo il concerto della pop star Ariana Grande, un terrorista si è fatto esplodere, uccidendo 22 persone e ferendone altre 122. Nel giro di poche settimane è stata colpita anche Londra. La sera del 3 giugno, un terzetto di terroristi armati di coltello ha attaccato il Borough Market, uccidendo 8 persone. Mentre già a marzo un uomo aveva cercato di attaccare il palazzo di Westminster, accoltellando a morte un poliziotto. Ma sono i numeri il peggior nemico dei servizi di sicurezza, e non solo in Gran Bretagna. Secondo una dichiarazione dell'ex capo dell'antiterrorismo francese Louis Caprioli, sono necessari tra i 15 e i 20 agenti per seguire costantemente un sospetto di terrorismo. In un'intervista al Business Insider, l'ex analista dell'MI5 Annie Matson ha confermato questa proporzione e ne ha tratto alcune proiezioni. Per controllare i 3.000 sospetti britannici sarebbero necessari 60.000 funzionari di polizia, circa la metà dei 127.000 poliziotti poliziotti britannici, a cui vanno aggiunti circa 4.000 funzionari dei servizi. Un impegno immane, che non consente il controllo assoluto. È vero che la maggior parte degli attentati vengono condotti da personaggi noti, ha detto Metton. Di solito proviamo ad approcciarli per reclutarli come agenti o per metterli in guardia. Sappiamo chi sei e cosa potresti fare. È meglio se smetti subito. Ma non può funzionare in ogni caso, ha concluso l'ex agente dei servizi di Sua Maestà. E andiamo in diretta a Londra, dove c'è Dario Ricci. Dario, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano, un posto un po' inusitato per te, insomma. Sì, di solito intervengo un'oretta prima, ma con grande piacere sono a farvi compagnia oggi da Londra, da Liverpool Street, dalla casa dell'atletica italiana. Ecco, è anche un luogo inusitato, Nessun Luogo Lontano, scusate il gioco di parole, perché normalmente ci occupiamo di affari internazionali, geopolitica, conflitti, e stavolta ti stiamo usando in qualche modo come nostro informatore sulla questione sicurezza a Londra. Tu stai seguendo i mondiali di atletica, che offrono validi spunti appunto dal punto di vista sportivo, sono certo che ti stai divertendo, ma nel frattempo ci siamo messi d'accordo, stai anche buttando l'occhio a quella che è appunto la situazione della sicurezza. Hai girato gli stadi, stai parlando con varie persone sul posto. Che aria tira Londra in questi giorni? Devo dirti che in questa vacanza studio quello della sicurezza era uno dei temi caldi, proprio perché sappiamo Londra è stata ferita più volte e anche recentemente, proprio nella notte della finale della Champions League a Cardiff, no? Di che raccontavate nella scheda, e quindi eravamo partiti qua come spedizione italiana, colleghi eccetera eccetera, con una certa apprensione. Devo dire che la realtà che abbiamo trovato sul campo invece è decisamente diversa, con pragmatismo inglese. Il problema terrorismo viene chiaramente affrontato, ma con modalità assolutamente discrete. Ti faccio un esempio: mi aspettavo di trovare grandi metal detector all'ingresso dello stadio olimpico, invece i controlli sono puntuali ma molto leggeri. Ad esempio noi giornalisti non passiamo il nostro zainetto come d'abitudine, con computer, attrezzatura, appunto in questo metal detector, ma c'è un controllo, una perquisizione leggera, visuale, un controllo rapido del contenuto delle nostre sacche, e poi si accede allo stadio. Stessa cosa su per giù, avvenuta anche ieri a Wembley, dove ho avuto la possibilità di seguire il Community Shield, la Supercoppa tra Chelsea ed Arsenal. Quindi devo dire, da questo punto, grande schieramento di forze, perché poi Bobbies, gli steward, la polizia è presente, sempre ben visibile, ma controlli sempre molto, molto soft. Ecco, tra il pubblico, gli atleti soprattutto, e gli operatori, insomma, che sono lì, è un tema dibattuto, o come dire, questi controlli molto soft in qualche modo creano un'atmosfera anche più rilassata e rasserenante, perché poi alla fine gli atleti soffrono di questa sindrome di prestazione importante, quindi probabilmente si cerca anche di creare un ambiente a loro favorevole. Sì, devo dire che l'attenzione sul tema pian piano con le ore è andata diminuendo, diciamo c'è un clima di grande fiducia nelle autorità. Poi però ecco, magari capita, come è capitato a me, di lavorare nei pressi di Stretford Station, nella zona di quello che era il cuore del centro olimpico delle Olimpiadi del 2012, e quindi e magari camminando ci si imbatte in un volantino come quello che ho tra le mani, che suggerisce di far riferimento alla Confidential Anti-Terrorism Hotline, un numero di telefono sempre a disposizione in caso di si notino comportamenti o soggetti sospetti. È un volantino semplice, un cartoncino con i numeri di riferimento e anche che descrive in toni anche molto forzosivi il fatto che è responsabilità di ognuno, no? Quello di essere vigile rispetto a questo tema, e propone una sorta di decalogo di quelli che possono essere i personaggi potenzialmente sospetti. Sono casi anche abbastanza comuni ed evidenti, ma è chiaro che se uno magari va in un negozio in un vivaio e compra una certa quantità di fertilizzanti chimici, ebbene chiaramente di questi tempi certo. segnalarlo alla linea antiterrorismo, perché certo. non è detto che abbia una piantagione di banane sul balcone. Certo, certo. Grazie mille Dario Ricci per questa tua testimonianza. Ti lascio alle tue grazie cronache che ascolteremo nei prossimi GR, perché insomma lì a Londra si continua a correre. Grazie Dario, buona giornata, buon lavoro. Gianmarco, titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Tali e Elisa Pancaldi, che hanno confezionato con me anche questa prima puntata di questa seconda settimana di programmazione. Gianmarco Ferronato in regia, che ha dato musica e ritmo. Voi per essere stati all'ascolto. Intanto io vi saluto e vi ricordo le repliche domattina alle 6, appunto, se siete mattinieri. Poi c'è il podcast. E poi domani, di nuovo alle 16, in diretta, Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.